Soltanto le stelle, le frasi che noi ci diremo, sapranno soltanto le stelle, i baci che noi ci daremo. Sul calmo orizzonte una vela, vedremo d'un tratto spuntare la magica barca dei sogni che sol per gli amanti riappare. Con te una notte a Sorrento, avvinti col cuore sul cuore, godremo l'ebbrezza e il tormento, la vita in un'ora d'amore.